abbiamo con noi questa sera la signora Dander che ci illustra gli atti di un convegno che si è tenuto qui a Bolzano nel 2011. Bolzano è una città che ha una tradizione in questo senso, no? Negli studi di grafologia, perché so che da tantissimi anni, da parecchi decenni, c'è una scuola, ci sono corsi, c'è stato anche un legame con Urbino a suo tempo. Sì. E quindi c'è stata sempre una sensibilità nei confronti di questa disciplina che torna in aiuto non solo degli insegnanti ma pare anche nell'ambito della criminologia, sì. No? Quindi è sicuramente affascinante poter scoprire e indagare insomma alcune peculiarità della natura umana, del carattere di una persona anche attraverso l'esternazione del segno grafico. E tutti noi abbiamo delle scritture diverse, è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto anche da sperimentare, da leggere nei documenti archivistici magari del Medioevo, vedere come certi tratti erano più vigorosi, altri più delicati e pensare chissà come sarà stato questo scrivano, no? Perché c'è poi una componente fisica anche in queste cose. Erano prevalentemente uomini probabilmente a quel tempo, oggi invece l'alfabetizzazione è diffusa e io sono particolarmente contenta che questo convegno nel 2011 abbia avuto questo obiettivo di seguire le tracce, ecco, di donne famose in Alto Adige, quindi anche un legame col territorio. Ho visto delle foto dove si trovano volti famosi, conosciuti. Quindi sarà molto interessante, il libro l'abbiamo qui in biblioteca, ce lo siamo divorato. Ecco, e ringrazio tutti voi di essere venuti e grazie a lei, signora Dander, di aver accettato il nostro invito. Grazie. Buona molte. Serata a tutti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono io, chiedevo ringraziare la dottoressa Valentini e il dottor Uru e tutti i collaboratori di questa bella biblioteca così attiva che è accogliente, che ci ha dato la possibilità di presentare questo nostro libro, dico nostro perché io sono qui come rappresentante dell'Associazione Grafologica. La nostra associazione fa parte delle agenzie di educazione permanente della provincia e in quanto tale percepisce dei contributi provinciali senza i quali naturalmente questo convegno di 2 anni fa per esempio sarebbe stato impensabile. Come diceva la dottoressa Valentini, questo libro contiene gli atti del convegno che abbiamo tenuto 2 anni fa alle OVAC. L'intenzione era quella di far conoscere la grafologia ad un pubblico un pochino più vasto, perché è vero che, come diceva la dottoressa, che a Bolzano c'è questa tradizione abbastanza lunga nel tempo, c'è purtroppo anche ancora molta disinformazione sul settore, perché tante persone ritengono ancora che la grafologia non sia una scienza umana come pensiamo noi, ma che faccia parte delle scienze esoteriche. Anche nelle librerie purtroppo, se si trovano libri di grafologia, sono nel reparto esoterica. In realtà all'Università di Urbino c'era un corso di laurea, laurea breve, in scienze grafologiche e oggi c'è il master, e siccome dall'inizio di quest'anno, con la legge 4/2013, il grafologo è entrato a far parte delle professioni riconosciute, si pensa di ritornare di nuovo in ambito accademico. Per quanto riguarda dunque questo nostro libro, contiene dunque le relazioni di 10 grafologi o psicologi della scrittura, perché in Germania e in Svizzera ci sono delle scuole che preferiscono chiamare questa figura professionale psicologo della scrittura, E ogni relatore, secondo la sua metodologia, ha presentato il ritratto, delineato un ritratto grafologico di una delle 14 donne famose, le abbiamo chiamate donne o altoatesine o che comunque hanno qualche legame, hanno avuto qualche legame con l'Alto Adige e che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura della nostra provincia. Fra le tante donne che sarebbero state meritevoli di essere inserite in questa lista, ne abbiamo scelte solo 14, tenendo conto di abbracciare un arco di tempo possibilmente lungo. La nostra donna più antica è del 600, prima non era possibile perché le donne non scrivevano, o pochissime, insomma, e comunque non donne della nostra provincia. E le ultime sono delle giovani ragazze, le nostre sportive, Carolina Costner, Tania Cagnotto e Karen Puzzo. Il nome sulle tracce di donne famose vuole proprio indicare questo, andare alla ricerca di queste tracce grafiche, dunque questi segni lasciati su carte ingiallite dal tempo, incisi con la penna d'oca nel 600, e i tratti grafici invece stilati con l'avviro su block notes moderni. Dunque abbracciare questo arco di tempo il più lungo possibile e poi trovare rappresentanti femminili dei più diversi settori. Spaziamo dalla, sono più donne dunque che si sono distinte in vari ambiti, da quello religioso a quello politico, economico, artistico, letterario, musicale, psicoanalitico, pedagogico e sportivo. Ogni relatore dunque, ogni grafologo ha cercato di accompagnare il pubblico del convegno e nel libro il lettore alla ricerca di queste persone così come si rispecchiano nei loro saggi grafici, accompagnandoli anche durante l'arco della loro vita, perché ovviamente la nostra scrittura cambia nel corso della vita e rimane comunque sempre il riflesso della persona che siamo in quel momento, con le nostre esperienze, con le nostre vicissitudini che noi possiamo appunto vedere poi nel cambiamento della scrittura. Sì, dunque penso che questo sia sufficiente come spiegazione del motivo, il motivo ovviamente era quello di divulgare la conoscenza della grafologia come strumento di indagine della personalità. Sulla copertina vediamo dunque queste 14 donne, cominciando in alto a sinistra vediamo questa bella signora che è Alma Mahler Werfel, una donna di, a cavallo del secolo XIX e XX, è stata la musa ispiratrice di tanti artisti, dei pittori come Klimt e Kokoschka, dell'architetto Gropius, che è stato il fondatore del Bauhaus, di Franz Werfel, del scrittore austriaco, e del compositore Gustav Mahler. E ecco l'aggancio con l'Alto Adige, le ultime villeggiature che Gustav Mahler ha trascorso insieme ad Alma sono state appunto a Dubianco, il luogo che lei ha scelto perché lui potesse trovare un posto dove comporre con tranquillità, e difatti ha scritto delle meravigliose composizioni. Vicino a lei, a destra, vediamo il ritratto di Maria Huber, che è una che è una bressinese, dunque nata e vissuta sempre a Bressanone, è nata nel 1653, quindi è la nostra donna più antica, e pur essendo di umilissime origini, faceva la serva, per così dire, insomma, i servizi nelle case degli aristocratici, è diventata poi la fondatrice della congregazione delle suore terziarie. Vicino a lei vediamo la Nicoletti, Angela Nicoletti, una catacomben-lehrerin, dunque un'insegnante clandestina durante la dittatura del fascismo in Alto Adige. Fu naturalmente perseguitata per questo motivo, anche incarcerata, e morì a soli 25 anni, per cui diventò un po' l'icona o la martire, diciamo, della resistenza in Alto Adige. L'ultima nella prima fila a destra la vediamo nel suo elemento naturale, che è l'acqua, la conosciamo tutti, è Tania Cagnotto, bolzanina e prima donna tuffatrice ad altissimo livello. Seguendo adesso in verticale la prima colonna, sotto a Alma Mahler vediamo l'altra giovane sportiva, Carolina Kostner, famosissima a livello mondiale, e credo di non dovere più spiegare nulla di questo personaggio. Sotto a lei invece, questa figura è forse meno nota, è Lyubov Fedorovna Dostoevskaya, la figlia di Dostoevsky, che ha passato gli ultimi anni della sua vita a Bolzano ed è anche sepolta al cimitero di Oltresarco. Sotto ancora vediamo il volto famosissimo di Lilli Gruber, anche lei, come sapete benissimo, alta tesina, giornalista, scrittrice, ex europarlamentare. Sotto ancora l'ultima della prima colonna verticale è la contessa Thun, la contessa degli angeli, quella che ha creato l'angelo di Bolzano e ha fondato le basi del piccolo impero Thun, diciamo, insomma, anche questa è un'azienda molto conosciuta in tutta Italia e anche fuori, e Lene Thun dunque è qui come è stata scelta, diciamo, come imprenditrice. Vicino a lei la terza giovane sportiva, Karen Puzzo, sciatrice, campionessa di sci, e ancora vicino a lei Siglinde Taz Borgogno, un'artista, una scultrice. Fra le tante artiste della nostra provincia abbiamo scelto lei in quanto il suo tema prevalente è la figura femminile, e visto che parlavamo di donne ci sembrava giusto che lei facesse parte della nostra cerchia di donne famose. Vicino a lei, dunque l'ultima della seconda colonna verticale, naturalmente tutti conosciamo l'imperatrice Sissi, che tramite i suoi due inverni passati a Merano ha reso Merano famosa come città di cura e quindi ha lasciato tantissimi segni nella nostra storia. Sopra a Sissi vediamo il ritratto di Andreina Emery, avvocato e attivista per i diritti delle donne. Ancora sopra Bertagnolli, Gemma, sì, scrive il nome, cantante lirica, una delle maggiori nomi nella musica, nel canto barocco, bolzanina. E sopra Bertagnolli vediamo Anna Freud, la figlia famoso Sigmund, che trascorse insieme al padre e anche ad altri componenti della famiglia alcuni periodi di vacanza sul Renon a Colalbo e anche un inverno da sola a Merano. Quindi queste sono le nostre donne, queste sono in breve le motivazioni per cui le abbiamo scelte. E adesso vediamo alcune scritture, entriamo nel vivo. Questa è la scrittura di Maria Huber, dunque la nostra donna più antica, quindi anche la scrittura più antica. Questo saggio grafico è del 1701, quando Maria Huber aveva già 48 anni. E io devo dire che io anch'io sono di Bressanone e sono passata migliaia di volte davanti al convento delle suore terziarie. Sapevo di questa Maria Huber, avevo visto questo ritratto piuttosto insignificante, almeno a me non diceva moltissimo, e non mi sono mai interessata di questo personaggio. Quando poi un giorno ho visto alla Biblioteca delle Donne un libro su di lei, apro la copertina e vedo all'interno questa scrittura. Sono rimasta così impressionata dalla vitalità incredibile. Adesso non so se io ormai ho lo sguardo deformato o se anche chi non è abituato a vedere tante scritture ne può percepire il grande movimento, la vivacità, la vitalità. E ho pensato, ma guarda, adesso non è una santa, quindi non abbiamo delle reliquie o cose del genere, ma se anche ci fossero sarebbero morte come è morto il suo corpo. E anche quel ritratto lì appunto non è che ci anima molto. Ma questa scrittura è proprio quello che è rimasto di lei, è il concentrato della sua, di questa vivacità, di questo temperamento, di questa espansione, di questa... Guardate, è una scrittura fatta tutta di movimento, che è poi una cosa rarissima, soprattutto nelle persone che appartengono a degli ordini religiosi, dove la forma generalmente prevale sul movimento. Nella scrittura la forma... è la forma, cioè è la forma esteriore, sono le regole, sono le norme, sono tutto quello che ci viene in qualche modo trasmesso, dettato e imposto, mentre il movimento è il temperamento della persona, dunque il suo impulso vitale. E in questa scrittura qui l'impulso vitale è talmente trasbordante che spazza via la forma. E quindi ho capito quello che questa donna sentiva al suo interno, questo fermento religioso, questa passione che la portava addirittura all'estasi mistica e che non si poteva più curare delle forme, eccetera, no? Quindi anche questa congregazione che lei ha poi fondato era più una comunione, non era in primo luogo, non c'erano le regole, queste cose qui, era proprio un modo di condividere questa sua particolare passione. Qui invece questa è la scrittura della più giovane delle donne rappresentate in questo libro, è la scrittura di Carolina Costner, all'epoca aveva 24 anni e possiamo riconoscere subito una scrittura tipica del nostro tempo, no? Le nostre ragazze scrivono più o meno in questa maniera, sono scritture piuttosto tonde che si sviluppano quasi solo sulla zona media, non ci sono tanti allunghi né in alto né in basso, sono un po' gonfie queste lettere e piuttosto strette tra di loro. La firma vedete che è invece molto più sciolta, più libera e anche più individualizzata. più creativa, diciamo. Lì viene, ecco, la firma nei testi indica il vero io, quello che noi scriviamo, il testo ci rappresenta nel nostro ruolo nel mondo professionale, oppure insomma la maschera sociale, diciamo, che indossiamo per incontrare gli altri. Nella firma invece si vede proprio la persona com'è e soprattutto le sue aspirazioni, le sue tendenze, eccetera. Quindi qui c'è questa differenza, perché ovviamente quasi tutti i personaggi pubblici devono crearsi queste maschere per non essere invasi nella loro interiorità. Adesso, al di là che una è una scrittura moderna, l'altra è antica, anche nell'ambito della stessa epoca ovviamente ci possono essere delle grandissime differenze individuali, cioè siamo plagiati dall'epoca in cui viviamo, però al di là di quello naturalmente abbiamo la nostra personalità che si evolve in maniera autonoma. Qui ho messo a confronto la scrittura di prima, di Maria Huber, con quella di una suora contemporanea, questa era una suora di clausura che aveva più o meno l'età di Maria Huber, e vedete la grande differenza, no, fra le due, come quella a destra, questa della suora di clausura, che era comunque giovane, aveva 34 anni, è molto più controllata, molto più irrigidita, molto più contenuta e frenata, direi, mentre appunto qui abbiamo tutta questa libertà di movimento, questa espressione di... naturalmente se Maria Huber non avesse avuto questa personalità così eccezionale non sarebbe mai arrivata a essere, appunto, a diventare la fondatrice di una congregazione, no? Quella è una suora, diciamo, che rispetta le regole, che è una persona bravissima, però non esce, diciamo, dagli schemi che le sono stati imposti o che si è autoimposta. Così anche per Carolina possiamo dire, sì, è una scrittura abbastanza tipica per la nostra epoca, però se la mettiamo a confronto con quella di Karen Buzzo, vediamo che ci sono comunque delle differenze notevoli. Adesso qui la relatrice che ha trattato, che ha fatto i ritratti grafologici di queste tre giovani sportive, ha voluto creare questo paragone del movimento della penna sulla carta col movimento del corpo durante l'attività agonistica, e ha evidenziato come la grazia e la leggerezza dei movimenti della pattinatrice su ghiaccio si ripetono nella scrittura, che è anche spumeggiante, diciamo, e leggera così, mentre la tipica posizione dello sciatore pendente si rispecchia anche nella scrittura pendente. Adesso questo naturalmente non significa che tutti gli sciatori scrivono in maniera pendente, era così un modo gradevole per creare, diciamo, questi paragoni. In realtà la posizione pendente della scrittura di Karen Buzzo indica proprio una maggiore espansione, una ricerca di contatti, perché la nostra scrittura si muove da sinistra verso destra, quindi destra è il nostro movimento naturale, diciamo, è l'incontro con gli altri, con il mondo, col futuro, con tutto quello che è fuori da noi. Le scritture pendenti a destra indicano proprio questa esigenza di entrare in contatto con gli altri, cosa che non vediamo nella scrittura di Carolina, che rimane più dritta, addirittura leggerissimamente inclinata verso sinistra. Dunque questo lo possiamo anche vedere nella posizione del corpo, una persona che si piega in avanti per ascoltare l'altro, per essere partecipe, eccetera, automaticamente inclina il corpo verso l'altro. Chi invece rimane così dritto, rimane concentrato su se stesso, non ha questo desiderio di... Quindi la relatrice di questa relazione ha appunto letto queste scritture come la scrittura di Carolina, di una persona soddisfatta di se stessa, di quello che ha realizzato, che anche compiaciuta, diciamo, dei suoi successi e che aspetta che gli altri vengano a chiedere o a interagire con lei, mentre Karen, che è più slanciata verso gli altri, desidera partecipare al anche queste sue vittorie agli altri e essere comunque in contatto con il mondo. Queste sono le scritture a sinistra di quella di Lilly Gruber e a destra quella di Lene Thun, quindi ho messo a confronto la scrittura di una donna che lavora con le idee, Lilly Gruber, e una donna che lavora con cose concrete, con la creta proprio, no? Prima di diventare un'imprenditrice era una... Ecco, adesso aiutatemi voi perché io ho guardato su tutti i dizionari, ma Kunsthandwerkerin, non so come dirlo in italiano, artigiana, artistica, ma non si può dire. Si può dire? artigiana, artistica. Mi suona un po' strano, comunque se voi me lo passate, questo è quello che volevo dire. Cioè era un'artigiana prima di diventare l'imprenditrice, l'imprenditore, poi è diventato figlio più ancora di più, no? A livello. Lei ha proprio questa tipica scrittura della persona anche pratica, che ama anche toccare con mano le cose e avere un contatto anche fisico con il mondo materiale. E poi potremmo parlare di tante cose, di tratto, di spazi fra le parole, fra le righe, ma questo non è un corso di grafologia, sono così alcuni flash, anzi se c'è qualcuno interessato a eventuali corsi di grafologia, abbiamo predisposto qui una lista e se volete lasciarci i vostri nominativi vi informeremo molto volentieri sulle nostre attività. Ecco, questi invece sono due saggi della stessa persona e sembra a prima vista incredibile, ma appartengono tutti e due all'imperatrice Sissi e non sono nemmeno così lontani nel tempo. La prima è del 1884 è la poesia scritta in un suo diario, scritta due settimane dopo le sue nozze con l'imperatore. E vediamo una scrittura evoluta per l'età, perché in fondo aveva solo 18 anni, ma molto vivace e non la scrittura della tipica cortigiana, diciamo, no? Della tipica donna di corte, e sappiamo benissimo che era appunto questa ragazza fresca, autentica, naturale, eccetera. Tre anni dopo ha scritto la lettera a destra e cosa era successo? Da sei mesi era morta la sua bambina, Sophie, prima figlia. La relatrice viennese, ovviamente in questo caso la grafologa viennese che ha trattato questo argomento, dice giustamente che i biografi hanno dato poco peso alla morte di questa bambina, invece dalla scrittura, dalla differenza enorme di questa scrittura, noi possiamo capire quanto avesse significato questa morte, intanto perché perdere un figlio è sempre una cosa terribile per ogni mamma, ma poi anche perché lei aveva portato questa bambina in Ungheria contro la volontà della sua suocera e la bambina aveva contratto questo virus lì e è poi morta. Quindi anche i sensi di colpa, anche il senso di fallimento, di inadeguatezza per il ruolo che si è trovata a coprire, eccetera. Tutto questo ha completamente appiattito questa scrittura, le ha tolto ogni vivacità e ogni forza. È impressionante, no? questo confronto. E ci fa vedere come appunto la scrittura ci segue in tutte le nostre evoluzioni e come uno specchio riflette quello che ci succede e come reagiamo. Questi sono anche due saggi grafici della stessa persona. Qui si tratta di Angela Nicoletti. Il primo saggio a sinistra, ingrandito, è un foglietto di carta sul quale scrive a suo padre clandestinamente, perché ovviamente non era possibile. È riuscita insomma a far uscire dal carcere questo fogliettino che poi al convegno abbiamo pubblicato per la prima volta, perché non era mai stato reso pubblico, diciamo. E qui vediamo tutta la forza, la volitività, la resistenza, l'attaccamento alle radici e anche alle proprie convinzioni. E vedete anche in questo atteggiamento, questa inclinazione a sinistra questa volta, proprio questa difesa strenua della propria persona, soprattutto della propria terra. E a destra poi vediamo invece, questa è l'ultima nota sul suo diario, poco prima della sua morte nel 1930, dunque a 25 anni, e vediamo come è completamente cambiato lo spirito, come tutte queste emozioni del passato si sono attenuate, come è subentrata una forma di rassegnazione, ma anche di pacatezza, di accettazione, diciamo, serena. E nonostante la vitalità, naturalmente molto molto diminuita a causa delle condizioni di salute, dobbiamo apprezzare l'impostazione corretta del foglio, mantenere del rigo, cioè questa forma esteriore, questa dignità che lei ha portato avanti fino alla fine. Questo è un ultimo confronto fra due scritture della stessa epoca. Questa è sempre la prima della Angela Nicoletti, e quella a destra è quella di un'insegnante che è venuta in Alto Adige, diciamo, per colonizzare, per così dire, il territorio. E le ho messe vicine per paragonare i modelli grafici. A sinistra abbiamo il modello calligrafico gotico, che si insegnava allora nelle scuole tedesche, e a destra invece il modello calligrafico latino. Naturalmente, per poter giustamente valutare la scrittura, dobbiamo anche conoscere il modello col quale ha imparato a scrivere. Però al di là del modello, che ha la sua importanza, questo non ci impedisce di riconoscere comunque tutti quegli altri tratti personali che la persona appunto ha come individuo. Io mi voglio fermare qui per non stancarvi troppo. Vi ringrazio molto della vostra attenzione, spero che leggiate questo bel libro. Se non bastano gli esemplari che ci sono qui, ma ce n'è uno solo, potete acquistarlo presso la nostra associazione. Ci sono un libro di Madalena? Ecco, la signora. Ecco. Ecco, e se avete altre domande, sono molto volentieri a vostra disposizione. va la grafologia che adesso scrivono tutti al computer, al telefonino? Al... Sì, questo è vero che è più, diventato più difficile. Non scrive quasi più nessuno. Ma tutti sa che tutti dicono così. Adesso io sto cercando per una mia collega svizzera che vuole fare proprio una relazione su un, sulle scritture di persone poco abituate a scrivere. E ho chiesto, non so quante persone, cioè non, persone che hanno imparato a scrivere, però che non scrivono più, che tutti mi dicono che non scrivono più. Non sono riuscita a trovarne uno, perché la lista della spesa o qualche appunto o non le vedo poi in realtà queste persone che proprio non scrivono. Scrivono ovviamente meno e quindi il compito del grafologo è più difficile perché abbiamo delle scritture più povere, meno espressive di quelle di una volta quando appunto l'esercizio grafico era molto più frequente. Ma finché non i bambini imparano a scrivere con le penne, la grafologia è molto utile, per esempio, anche nel settore scolastico. Ci sarebbe da nominare la rieducazione della scrittura, ci sarebbe da dire anche sulla grafoterapia che viene, ho sentito proprio recentemente in Germania, due rappresentanti della grafologia brasiliana e belga che lavorano con carcerati, per esempio, o con altre categorie, sulla grafoterapia, cioè cercando di cambiare la propria scrittura in quei punti, cioè quelle tensioni, tutte quelle cose che si sono accumulate nel corso della vita, sciogliendole anche attraverso l'esercizio grafico, si possono avere dei miglioramenti. Questi sono solo aspetti marginali. Poi abbiamo tutto il campo del peritale, tutte le firme, fino adesso ancora la maggior parte delle persone firma a mano, no? Quindi anche lì c'è un repertorio enorme. Poi se proprio nessuno più dovesse scrivere, ci rimangono ancora gli scritti storici, come per esempio quello meraviglioso della Maria Rullo, ma ce ne sono, gli archivi sono pieni e rimarrebbe sempre ancora questa bella scoperta di vedere chi erano veramente queste persone al di là del loro ruolo pubblico. E poi a scuola ci insegnavano la calligrafia, ci insegnavano a scrivere, sì. Ci insegnavano a scrivere bene, sì. Tentavano. Sì. E questo imparare a scrivere con la bagna non incideva poi su quello che si sarebbe potuto scrivere? No, io sono una fautrice dell'insegnamento classico, cioè è come anche in tutti i tipi di sport, ci vuole prima un addestramento, non so come chiamarlo, molto preciso, perché se cominciamo subito già a lasciar perdere alcune, dopo è molto più difficile recuperare, no? E anche nella scrittura si sono visti adesso attraverso tante sperimentazioni che i bambini che hanno imparato a scrivere con tanti esercizi precalligrafici hanno molta meno probabilità di sviluppare la disgrafia rispetto ai bambini che cominciano subito a scrivere parole intere e così via, no? Quindi è importante all'inizio. Adesso, naturalmente una volta forse si esagerava, no? Però all'inizio sarebbe importante che il bambino proprio interiorizzasse bene quello che è il modello calligrafico. Dopo arriva ancora a personalizzarlo a tempo tutta la vita, e se noi guardiamo tutte queste scritture appunto di persone che hanno frequentato queste scuole rigide, diciamo, hanno poi sviluppato le loro scritture assolutamente individuali col tempo, non è che uno per forza rimane poi sempre aderente al modello. Rimangono aderenti al modello le persone che preferiscono rimanere in un contesto diciamo sicuro, deciso, tradizionale, eccetera. Chi preferisce un pochino uscire dal binario inizia a personalizzare il modello grafico. e poi naturalmente la maturità della vita, eccetera, ci aggiunge del suo. Claudia, volevo chiederti, persone che sono alcolizzate o dediche a... Sì? Ecco, avete fatto delle ricerche in tal senso per vedere quanto intervengono, diciamo? Sì, ci sono... sì, ci sono. Cosa succede? È naturalmente sia col consumo dell'alcol, sia col consumo di droghe o anche di psicofarmaci o altre sostanze chimiche, purtroppo si alterano molto i circuiti nervosi, e la nostra scrittura è frutto del tutto il sistema nervoso centrale e periferico, e quindi naturalmente le conseguenze poi si vedono nella scrittura. Sono state fatte tante ricerche, sono stati anche evidenziati, diciamo, i fenomeni tipici di ogni tipo di questa di malattia, dipendenza o quello che è. Ci sono stati anche dei medici che hanno dosato i farmaci, soprattutto i psicofarmaci, in base alla scrittura, analizzando la scrittura, naturalmente anche adesso con microscopi, così via, no? I tremori e tutte queste cose, con una determinata dose, abbassando, poi vedevano se il tratto migliorava, peggiorava e così via. Anche questo è successo. Adesso naturalmente nel campo della medicina dobbiamo andarci veramente molto piano, rimanere più osservatori, che perché ci vorrebbe una sperimentazione molto più ampia, e purtroppo non c'è nessuno che la finanzia, perché probabilmente anche nessuno ha questo interesse, e come dicevo già all'inizio, purtroppo non tutti credono nella grafologia, quindi gli studi sono stati portati avanti, sono stati fatti appunto da idealisti, da persone che lo hanno fatto così, spendendo il proprio tempo e le proprie energie, ma certo sarebbe molto molto interessante poter approfondire più. Un'altra domanda che io mi pongo, ma i cinesi che non hanno una scrittura, ma che come fanno? Indubbiamente ci sono pressioni, sì. Modelli, però mi sembrerebbe molto più difficile, insomma, dare interpretazioni. Sì, sicuramente più difficile, perché... Quindi, ideogrammi, insomma. Sì, però naturalmente rimane sempre la conduzione del pennello. Rimane sempre il tratto in sé, che è già un indicatore. Per esempio, il tratto può essere sano o malato. Per esempio, quasi tutte queste persone, donne, chiamiamole famose, hanno un tratto abbastanza incisivo e piuttosto sano, lo chiamiamo, cioè la struttura del tratto è abbastanza integra. Ci sono tanti tipi di tratto, quando una persona è malata, debole, così si vede proprio che il tratto è come la stoffa, diciamo, che si vede che sono entrate le tarme, o quindi sì, il tratto da solo già è un indicatore di alcune cose. Poi anche lì ci sono i rapporti fra i singoli segni all'interno dell'ideogramma, gli spazi, quello che noi chiamiamo largo tra lettere, tra parole, eccetera, tra righe, così anche lì possiamo vedere come sono articolati questi spazi in maniera armoniosa o meno, cioè, lì abbiamo altri vettori. Nella nostra scrittura abbiamo il vettore di destra, appunto, che va verso il mondo, sinistra l'alto e il basso, loro scrivono dall'alto in basso, quindi dobbiamo cambiare appunto la simbologia attribuendo ai tratti discendenti, magari allungati, una maggiore tendenza ad andare verso gli altri. E sì. Posso dire la mia esperienza? Sì? Non è della sua levatura, è molto piccola. Ho seguito due corsi di grafologia. Sì? E mi è stato molto utile nel rapporto, ad esempio, all'interno dell'ufficio. Mm-hmm. No? Ecco, ovviamente quando i miei colleghi hanno saputo questo, mi hanno detto: non ti mandiamo più bigliettini, lo scriviamo perché tu leggi subito. È vero che anche con poche conoscenze grafologiche, mm-hmm. quindi quelle fondamentali, di base, senza andare in una conoscenza approfondita, si riescono a cogliere determinati stati d'animo. Sì. Per esempio, quando c'è questa chiusura, la si vede, è inutile insistere, aspettiamo il momento buono, sì, no? Arriva sì. il bigliettino scritto in una certa maniera, con le lettere attaccate, le parole attaccate, sì. ok, lasciamo passare, decantare un po' e aspettiamo il momento buono. Mm-hmm. Arriva altro documento con un bigliettino, ok, è il momento, si va. Oppure anche con un collega che ha avuto grossi problemi di carattere psichiatrico addirittura, no? Quindi e dovevamo collaborare e anche nel suo caso è stato utilissimo, cioè appunto guardando, osservando il tratto, poi lui tendeva a scrivere con la matita addirittura, quindi ancora di più si notava questa cosa. Sì. E questo è stato utilissimo anche a riconoscere al di là del carattere normale delle persone, perché c'era una persona molto rigida, molto severa, molto polemica, scoprire poi in un certo testo c'erano dei risvolti artistici. Che, sì. E questa è la cosa bella, secondo appunto questo che ho scoperto, ho potuto verificare, della grafologia, che non dà mai una sola immagine della persona, ma dà anche l'altro risvolto ed è quello che rende bella, no? Esatto. Cioè poter conoscere anche gli altri sotto un altro aspetto, sì. senza che non deve essere negativo o positivo, certo. cioè l'altro è l'altro aspetto, sì. no? Sì. Quindi sì. è completare una conoscenza e agevolare a volte, no? Proprio. Sì, certo. Quindi la ringrazio moltissimo di questa osservazione che posso solo condividere, un'esperienza effettivamente da consigliare a tutti quelli che interagiscono con altre persone, cioè a tutti anche a livello familiare e così via, ma effettivamente è uno strumento che ci aiuta a capire meglio l'altro, non deve servire per valutarlo, perché anche se dobbiamo fare delle analisi per valutare le capacità, le attitudini, diciamo, ad un certo lavoro, lo facciamo sempre finalizzato al benessere della persona, cioè cercando di evidenziare i suoi punti positivi, e se non sono quelli richiesti non gli si fa neanche un favore, diciamo, a aiutarlo a entrare in una posizione nella quale poi comunque si trova, non si trova, troverebbe a suo agio. Bene, se non ci sono altre domande, vi ringrazio tantissimo.